Buongiorno, sono Michela e rappresento il comitato per una nuova caserma Mazzoni. L'area in questione è proprio quella al confine tra il quartiere Santo Stefano e il quartiere Savena, lungo la via delle Armi, che è una via storica dove c'è appunto il canale Savena che risale al 1106. È un'importante area di 46.000 metri quadrati, oggetto di un progetto preliminare da parte della proprietà Cassa Depositi e Prestiti e del Comune di Bologna. Un progetto che prevede costruzione di alloggi privati, centro commerciale, insomma, una filosofia molto di un certo tipo di carattere urbanistico. Una filosofia, come è stato definito nel progetto, di creazione di un nuovo quartiere che prevede quindi molte residenze private. Si parla di 7 palazzi dagli 8 ai 6 piani, di un'area commerciale definita da alcuni piccoli, ma per noi 1500-2500 metri sono moltissimi, e di uno spazio servizio sociale che sarebbe, diciamo, una scuola e una palestra ai servizi dei cittadini. Ma il progetto iniziale prevede anche uno spazio verde. Un ettaro, si parla esattamente di un ettaro di spazio verde che sarebbe collocato proprio sotto i 5 palazzi residenziali vicino alla ferrovia direttissima. Quindi diciamo che tutto il quartiere Santo Stefano, soprattutto la parte della zona Murri Parisio e Via delle Armi, sarebbe un po' tagliato fuori dalla possibilità di usufruire di questa area verde. Per cui il nostro comitato, ragionando sugli spazi che appunto nel progetto abbiamo potuto identificare, ritiene che si debba assolutamente potenziare e ampliare lo spazio verde, possibilmente senza l'abbattimento di diversi esemplari che ci sono all'interno del parco, perché vi sono attualmente dentro la caserma Mazzoni sia una vegetazione spontanea cresciuta negli anni, ma anche un impianto di alberi originali della caserma. E nel sarebbe previsto l'abbattimento di buona parte di questi. Per cui noi chiediamo di rivedere sicuramente quella che è la superficie prevista per le abitazioni, di scendere sulla cubatura. E non vogliamo assolutamente il centro commerciale perché non ci serve, come è già stato detto più volte e in più sedi, non abbiamo bisogno di nuovi supermercati, abbiamo mercati di vicinanza, botteghe di vicinato e non abbiamo bisogno di nuovi centri commerciali. Vorremmo invece creare una zona parco, soprattutto lungo Via delle Armi, che è necessario che non venga trasformata in una via a due corsie, che andrebbe ad impattare su quella che è la viabilità, la mobilità della zona, anche per una questione di smog, di traffico. È già stato detto in più sedi, si parla di circa 2.000 auto che potrebbero passare al giorno. E quindi noi chiediamo di rivedere questo progetto preliminare prima che venga presentato in giunta, perché questa è la sede dove il progetto deve essere presentato entro il 31 dicembre 2020, per poter avere le autorizzazioni edilizie, che sia rivisto e che si crei una zona parco più ampia, che si creino degli edifici ai servizi dei cittadini, possibilmente un polo scolastico che copra più fasce d'età. Abbiamo chiesto anche eventualmente uno spazio per i giovani, che sia una sala di studio, una biblioteca, una piccola mediateca, ma comunque servizi per i cittadini e non servizi commerciali, e una diminuzione delle residenze. Questo perché? Perché noi non vogliamo assolutamente perdere la possibilità che questa area venga riqualificata e rigenerata. Quindi meno auto e più biciclette, se ho ben capito. Più biciclette, un parco lineare che attraversi la zona e colleghi la via Murri, via Toscana con la via Torino, potenziando le ciclabili. Attualmente ce n'è una di una corsia ciclopedonale molto frequentata, quindi andrebbe potenziata e si potrebbe sviluppare all'interno del parco per un chilometraggio più ampio di quello previsto dal progetto e soprattutto integrandola non in un sistema di strade e marciapiedi e vialetti alberati, ma proprio all'interno di un parco vero. Voi avete fatto una raccolta di firme, l'avete anche presentata. Ecco, quali sono i vostri rapporti allo stato dell'arte con l'istituzione bolognese? Noi abbiamo raccolto 1200 firme che sono già state protocollate e altre 300 o 400 sono in raccolta, sono firme reali, sono state depositate presso gli uffici URP del Comune di Bologna con la nostra petizione dove richiediamo queste specifiche modifiche al progetto preliminare. abbiamo avuto un incontro con gli assessori e siamo in attesa che si decida come procedere su questo progetto, tenendo conto quindi delle richieste del Comitato per una nuova casa Amazzoni e della cittadinanza dei residenti.